Dove andiamo? Andiamo al fronte. Cosa c'è? Ci sono i corpi! I morti rassegnati a loro stanno questo film del 900!